America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. This month we've had some very successful events in New York and those events raised approximately $10 million. Countdown convention repubblicana, perché fra 8 giorni parte la grande riunione di Cleveland e Trump cerca ancora soldi e consenso. Sabato l'ho visto arrivare agli Hamptons, a Long Island, una delle località di mare più ricercate dai newyorkesi che vogliono un po' di sollievo dal caldo della città. Wilbur Ross, un grande finanziere, miliardario naturalmente americano, ha organizzato una colazione per Trump che costava $25,000 al piatto. Questo era il contributo minimo, poi c'erano $100,000, si voleva parlare privatamente con Trump. Circa 50 persone, incasso di più o meno $1 milione, e complessivamente, tra l'altro, Trump ha raccolto in giugno $50 milioni, molto meglio di quello che aveva fatto in maggio, aveva raccolto solo 3 milioni. Hillary però è avanti a lui con $68,5 milioni. Ma torniamo a quello che è successo così a questo pranzo. La polizia ha bloccato le strade fra Great Plains e Horsley Neck, dove ci sono le ville più belle degli Hamptons, dove quella dei Ross, devo dire, con un giardino meraviglioso, compete fra le migliori. Trump è rimasto dai Ross un paio d'ore, ha parlato soprattutto della necessità di scegliere un buon vicepresidente e ha detto che gli piacerebbe esplorare la possibilità di avere Condoleezza Rice come compagno di corsa. In effetti, dal suo punto di vista, sarebbe un'ottima scelta, perché la Rice è preparatissima, credibile, è una donna come Hillary, è nera, quindi riflette le minoranze, dunque potrebbe controbilanciare la ex First Lady. Bisogna vedere se Condi accetta, visto che il suo gruppo, a partire da George Bush Jr., è contro Trump. C'era anche qualche protesta all'intorno, devo dire, la più divertente, c'era un cartello bianco con una scritta blu su una luccicante Lamborghini Huracan, due persone che lo ottenevano, che diceva «Trump, go home!» Te lo dice la classe media a Southampton. Ecco, la reazione democratica c'è naturalmente. Obama, come sappiamo, ormai corre apertamente per sostenere Hillary e ha detto, parlando da Madrid prima di rientrare in America di corsa per via degli incidenti di Dallas, ha detto: ho grande fiducia nella popolazione americana, nel suo buon senso, nei suoi valori, nella sua ragionevolezza. Credo che alla fine le persone si rendano conto dell'importanza del ruolo e dei compiti del presidente degli Stati Uniti. Noi abbiamo una posizione insostituibile a livello globale. Gli elettori avranno un atteggiamento molto serio quando dovranno decidere per davvero chi andrà a sedere nello studio ovale. Ecco, questo ovviamente è un messaggio contro Trump. Grande assente da questo fundraising David Koch, un super miliardario repubblicano che con il fratello aveva messo in gioco quasi $1 miliardo per le elezioni del 2016, aveva chiarito che non si sarebbe schierato nella corsa per la presidenza perché non ama Trump, nonostante poi lo vedesse a volte a Palm Beach. Come molti, si concentrerà sulla corsa per mantenere la maggioranza repubblicana in Senato, in modo che Trump trovi degli ostacoli nel caso diventasse davvero presidente, degli ostacoli all'interno del suo stesso partito. I check and balances, la separazione dei poteri in America, per fortuna funziona ancora. Whenever those of us who are concerned about fairness in the criminal justice system attack police officers, you are doing a disservice to the cause. Ecco, la copertina di questa settimana la voglio dedicare però a un'America che deve ancora rimarginare le ferite dopo l'eccidio di 5 poliziotti a Dallas, dopo l'ennesima notte di scontri, proteste, arresti. Siamo arrivati ormai alla quinta notte di dimostrazioni tra l'altro un po' dappertutto, dalla Florida alla California, dall'America del Midwest a quella dell'East Coast. L'America è scossa per gli assassini per mano della polizia di afroamericani, un paese che resta spaccato in due dal razzismo e dalla violenza, e devo dire di non aver mai visto l'America accasciata su se stessa come in questi ultimi 2 giorni. Qui non si parla d'altro, c'è anche molta rassegnazione, come dire, insomma, questo è un problema da cui non usciremo mai. Qualcuno teme che si possa tornare al conflitto ideologico degli anni 60-70 con una parte del movimento degli afroamericani che magari si identifica con la filosofia delle Pantere Nere, che erano degli attivisti che proponevano soluzioni violente all'insolubile problema razziale. Ecco, speriamo che non si arrivi a questo, certamente a questo non vuole arrivare Barack Obama. Sentiamolo da Madrid prima di rientrare in America dopo un vertice NATO che su altri fronti, su altri livelli, ha cercato di contenere i rischi di violenze possibili in Europa. Ecco il presidente americano. Because of that ability to protest and engage in free speech, America over time has gotten better. Obama dice: credo che la gente negli Stati Uniti vuole che le relazioni fra polizia e le comunità migliorino, ma bisogna anche rispettare la frustrazione che queste comunità sentono. Vogliono che tutte le parti si ascoltino ed è questo che vogliamo ottenere nelle prossime settimane. La famiglia americana, ha detto oggi, è in crisi. Dobbiamo lavorare insieme perché una famiglia siamo e una famiglia rimarremo per risolvere i nostri problemi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, purtroppo abbiamo avuto dei conflitti interni, pensate all'America che teme il terrorismo di ISIS e poi si confronta con un pericolo interno di terrorismo interno, l'America che guarda con la NATO ai pericoli di destabilizzazione militare in Europa. Dunque, beh, mi viene in mente l'unica canzone che dovrebbe ispirarci in giornate così, di John Lennon, sempre lui, il grande Lennon. Give peace a chance, diamo una chance alla pace. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.